e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Eccoci tornati per una nuova puntata da trascorrere insieme. Oggi ci augureremo buone vacanze perché Cuore Denari chiude per ferie e ci ritroveremo puntuali il 5 settembre anche con Deborah. Lasceremo naturalmente spazio al palinsesto estivo di Radio 24 con tanti programmi interessanti, in particolare tanto sport. Questa sarà l'estate delle Olimpiadi di Rio, ma non ci sono solo queste di Olimpiadi in vista, perché una volta conclusa l'avventura brasiliana ci aspettano in autunno le Olimpiadi di cucina 2016 in programma a Erfurt, penso che si dica così, in Germania, comunque dal 22 al 25 ottobre prossimo. A rappresentare l'intero stivale naturalmente la nazionale italiana cuochi impegnata nella fase preparatoria che la sta portando ad allenarsi in tutta Italia. La squadra tra l'altro si è incontrata proprio qualche giorno fa, lo scorso 26 luglio. I giovani cuochi sono guidati dagli chef Gaetano Raguni e Francesco Gotti e si sono impegnati in una simulazione della competizione con un evento organizzato in collaborazione proprio con, pensate, con l'Unione Cuochi Regioni Lombardia, che fa capo alla FIC, che è la Federazione Italiana Cuochi. Insomma, il team era al completo. La simulazione ha interessato 60 coperti, come sarà nella competizione vera e propria, e gli ospiti fortunati hanno assaporato la sequenza di questo menù e con simulazioni di ristorante con comanda, proprio come se fosse vero. È un po' come le Olimpiadi di Rio, tutti ci appassioneremo a qualche nuovo sport. Oggi vogliamo chiedervi di immedesimarvi in questa nazionale cuochi. Se vi trovassi alle Olimpiadi di cucina, quale sarebbe la vostra specialità? Il soufflé, le paste, i risotti, la carne? Insomma, pensateci e scatenatevi, raccontatecelo all'800240024. Poi vi presenteremo al nostro mister, perché anche in questo ultimo appuntamento della stagione ci aspetta infatti il nostro chef Andrea Ribaldone con la sua cucina randagia, ma ci sarà anche il nostro appuntamento dell'ultimo venerdì del mese con Salute Uomo, chiudiamo in bellezza, e infatti qui con me, che mi accompagnerà in tutta questa puntata, chiudiamo, fai un po' la Deborah tu. Certo. Andrea Salonia, ciao Andrea, ciao, urologo, amico. Andrologo presso il Dipartimento di Urologia dell'Università Vita Salute del San Raffaele di Milano e responsabile scientifico del progetto Salute Uomo di Cuore Denari. Quindi grazie, sei pronto? Nicoletta, buongiorno a tutti. Vi aspettiamo, una puntata che oggi dedicheremo alla salute di una categoria particolare. Possiamo già anticiparlo perché chi ascolta Cuore Denari era già stato avvisato, infatti ci hanno già mandato mail di richieste. Avevamo parlato della professione camionista proprio in questa settimana, che cosa è necessario per arrivare a svolgere questa professione, che sicuramente è dettata dalla passione ma è molto impegnativa, e oggi ci occuperemo del Cotè Salute, quindi 800240024, ma c'è la nostra rassegna stampa, andiamo. Allora, agosto è qui, è proprio alle porte, e come ogni anno ci si divide, vale sicuramente anche per i nostri ascoltatori, tra chi prepara le valigie e chi si prepara invece a trascorrere queste settimane estive rimanendo a casa. E chi vive nelle città assapora un'atmosfera nuova, c'è un po' più di calma, c'è il silenzio, il parcheggio si trova più facilmente, insomma non è male, ma rimanere in città ad agosto ha anche degli aspetti più critici, per la salute ad esempio a causa del caldo, ma anche per i denari. Ieri abbiamo parlato ad esempio del pericolo truffe, in particolare per gli anziani soli, oggi invece parliamo degli incontri poco piacevoli con sedicenti professionisti che poi non si rivelano tali. Ne parliamo oggi con Erino Colombi, presidente del CNA di Roma. Buongiorno. Buongiorno a tutti voi. Grazie per essere con noi. Allora, una situazione poco piacevole in cui ci si può trovare nel mese di agosto è quella di dover gestire un imprevisto che non riusciamo a risolvere da soli. L'elenco è lungo, un guasto all'auto, un tubo che perde, rimanere fuori casa, e ne dico solo alcuni, ma invito i nostri ascoltatori a raccontarci che cosa è capitato a loro quell'agosto in cui tutti erano in ferie e si sono trovati ad affrontare un grande disagio. Situazioni, Colombi, in cui normalmente no, si deve ricorrere ad un professionista. Durante l'anno si ricorre al professionista di fiducia, però ad agosto in vacanza si va un po' a cercare il buon professionista, ma non sempre si capita nelle mani giuste e si possono quindi correre dei rischi. Partiamo da qua. Questo rischio c'è di imbattersi in persone che non conosciamo e approfittarsi di una situazione di disagio. E proprio per questo l'iniziativa nostra è di fare una vetrina dove gli artigiani aperti, professionisti, sono a disposizione della città in questo periodo particolare. Infatti la vostra iniziativa si chiama Artigiani, Commercianti e Servizi Aperti ad Agosto. Sì, c'è un suo telefonino che suona. Anche il suo cellulare è aperto, ma non importa, può mettere il silenzioso, così raccontiamo ai nostri ascoltatori in che cosa consiste, no? Voi offrite un servizio? Sì, questa è l'ottava edizione, abbiamo iniziato in un momento particolare e l'iniziativa la chiamiamo Aperti per Ferie, ed è un periodo dedicato in cui c'era la crisi e mettevamo a disposizione una vetrina online con l'elenco delle imprese che gratuitamente si iscrivono a questo portale. Sì. E che è consultabile sia attraverso il sito dell'associazione www.cnapmi.org. Sì. E si avvale anche della collaborazione e del patrocinio del Comune di Roma e quindi attraverso lo 060606 si hanno notizie e indicazioni dei professionisti che rimangono aperti in questo mese. Anche nel giorno di Ferragosto? Eh sì, alcuni sì. Alcuni sì, meno male. Per Colombi, però, volendo trovare dei consigli di carattere generale, perché ci sono tante associazioni che si stanno muovendo, cosa dobbiamo aspettarci da un professionista che non conosciamo e che contattiamo per la prima volta per un'emergenza estiva? Beh, intanto essere sicuri che abbiamo chiamato il professionista che ci serve. Due, chiedere... cioè di chiamare un idraulico quando... Esatto, che ci sottoponga un preventivo e farsi rilasciare la ricevuta. Noi abbiamo dei protocolli con le unioni consumatori proprio per un'etica particolare, proprio in questi momenti, sia nel momento dei saldi e in queste situazioni. Senta, voi avete tra l'altro pubblicato anche una sorta di vademecum con dei consigli di buon senso per partire sereni. Sì. Ne ricordiamo alcuni? Sono consigli di buon senso, ma tante volte le cose che diamo per scontate sono quelle che no, dimentichiamo di fare. Sì, infatti la prima cosa è quella della casa, di rimanere e preoccuparsi di chiudere e essere sicuri a casa. Noi consigliamo, anzi i nostri fabbri ci consigliano di installare un sistema di sorveglianza, di sicurezza e le inferriate a finestre e balconi. Sì, chi non l'ha fatto e parte fra la prossima settimana è un po' dura, ma insomma ci penserà per il prossimo anno e cercherà di chiudere bene la casa e di controllare, poi si incrociano le dita. In particolare il nostro vademecum è quello di non lasciare le chiavi attaccate, perché c'è il rischio che poi si fa un bel lavoro e poi ci si dimentica le porte fuori, le chiavi fuori la porta. Ricordiamo di chiudere gli impianti del gas e quelli dell'acqua per non avere spiacevoli sorprese, e oltre questo qui i falegnami ci consigliano di tenere chiuse le porte degli armadi. Sì. Proprio per non farli svirgolare e non rovinare il legno. Ecco, si dice così in termine tecnico, svirgolare, esatto. Perché poi quando li vogliamo chiudere si gonfiano e non riusciamo più. Esatto, specie questi grandi armadi alti fino al soffitto. L'altra cosa è tenere le chiavi, sì, sia di casa che dell'auto, e tenerli in borse diverse, e le tinture e le sarte ci consigliano di riporre per bene gli abiti in buste che abbiano Vede, un po' d'aria. Anche il consiglio delle sarte abbiamo, sì, lei li seguirà tutti i Colombi? Anche questo delle sarte? Guardi, credo. Io ci provo. Non me la vedo a piegare i suoi vestitini nella busta, comunque... Io ci provo, guardi. Dai, mi mandi una foto del suo vestito piegato nell'armadio, nella busta. Promesso. Va bene, che noi la postiamo. Grazie, buone vacanze di Rino Colombi. Buone vacanze a tutti voi. Mi raccomando, allora, chiudiamo le case, partiamo per le vacanze, però non dimentichiamo, non abbandoniamo i nostri animali. Pensate che secondo il rapporto Italia 2016 Eurispes si stima che ogni anno in Italia siano abbandonati in media 130.000 animali tra cani e gatti. E le punte massime di animali abbandonati si registrano proprio quando? Nel periodo estivo, no? Quando la partenza per le vacanze pone il problema della presenza di un amico a quattro zampe. Insomma, se gli amici si vedono nel momento del bisogno, tanti umani, tanti bipedi, si dimostrano tutt'altro che amici del proprio animale. Al contrario, invece, gli animali è come se sanno dimostrarsi amici preziosi nel momento del bisogno. Direi che più che amici possono essere anche terapeutici. Ce lo racconta la dottoressa Manuela Vignolo, medico fisiatra del Centro Clinico Nemo di Arenzano e responsabile del progetto Confido. Buongiorno dottoressa Vignolo, grazie per essere con noi. Buongiorno, buongiorno a tutti. Questo progetto di Pet Therapy è nato dalla mia passione proprio per gli animali, in particolare per i cani, e unita all'amore, diciamo, per il mio lavoro che svolgo all'interno del reparto di riabilitazione neuromuscolare del Centro Clinico Nemo di Arenzano. Questo reparto è dedicato alla presa in carico e alla cura dei pazienti affetti da malattie neuromuscolari. Quindi parliamo di SLA, parliamo di neuropatie, parliamo di distonie e c'è un'equipe multidisciplinare di cui faccio parte anche io, che si occupa della presa in carico del paziente nelle diverse fasi di malattia. E tutto al fine di migliorare la qualità di vita del paziente stesso e del nucleo familiare, che per noi è comunque molto importante. Un bellissimo progetto dove anche si sfrutta, no? la compagnia terapeutica dell'animale che verrà addestrato, immagino, dottoressa Vignolo. Sì, assolutamente. Noi abbiamo ideato questo progetto, tutti i membri della nostra equipe hanno collaborato, sicuramente hanno contribuito alla realizzazione di questo progetto e miriamo a svolgere un progetto di terapia assistita con animale in cui alcuni pazienti verranno, diciamo quelli che vogliono accedere a questo protocollo, verranno affiancati nel loro trattamento sia col fisioterapista che con la terapista occupazionale da un cane con un operatore di Pet Therapy. È per questo che Nemo si avvale della collaborazione con l'associazione Assea Onlus in questo progetto che utilizza proprio i principi della Pet Therapy per ottenere quindi dei risultati maggiori, dei benefici fisici e psichici dalla presenza degli animali. Questo progetto che abbiamo pensato, che abbiamo ideato tanto lungamente, è stato finalmente reso possibile e si può finalmente realizzare grazie all'aiuto di Mondo Vicino, Outlet Village, che è sempre stato sensibile alle problematiche dei pazienti affetti da SLA, in associazione con la collaborazione con la Fondazione Vialli e Mauro Onlus. E grazie a loro è stato domani e dopodomani, quindi sabato e domenica, al Dogs Day, che è il tradizionale appuntamento che Mondo Vicino dedica ai cani e agli amici dei cani, ci sarà il lancio di una lotteria di beneficenza per sostenere proprio il nostro progetto. Ah, che bello! Quindi confidiamo, dottoressa. Una bellissima iniziativa che ci ha permesso di realizzare questo progetto e ci permette di sicuramente migliorare la presa in carico dei nostri pazienti e di migliorare anche proprio il la socializzazione, no? È importante perché, perché i pazienti, Andrea, e qua ti coinvolgo, hanno bisogno sicuramente di cure intese come terapie sempre più mirate, cucite su misura, ma hanno bisogno anche di cuore, di relazione, di sostegno, anche un animale, sì. No? Assolutamente sì, questa bellissima iniziativa che la dottoressa ci ha appena descritto entra in quel novero di tante altre iniziative di ormai lunga data che partivano dall'utilizzo della pet therapy, mi ricordo i cavalli piuttosto che i pony nei bambini con disabilità di vario genere, nei ragazzi down e quant'altro, e ritengo che da un punto di vista dell'innovazione in ambito di salute questa iniziativa rappresenti realmente un punto nodale, perché in un ambito totalmente altro rispetto a quelli precedentemente percorsi. Grazie dottoressa Vignolo. Grazie. Allora confidiamo. Esatto. Ok. Adesso, grazie a lei. Carmelo, noi andiamo a sentire, informazioni sul traffico e poi ritorniamo subito dopo insieme, tra poco. Cuore e denari. E siamo di nuovo qui per chiudere questa ultima rassegna stampa prima della pausa estiva di Cuore Denari. Andiamo, facciamo un salto negli Stati Uniti, Andrea. Molto belli. Allora, abbiamo sentito tanto parlare in questi giorni dei discorsi di sostegno a Hillary Clinton alla convention dei democratici, che ne ha confermato la candidatura alla Casa Bianca, dal marito Bill Clinton alla figlia, poi a Obama, eccetera. Ma l'endorsement più speciale è probabilmente quello che ha ricevuto, con una lettera firmata da alcune bambine che si chiedono come mai non sia ancora mai stata votata una donna presidente. Il testo suona così: sono così eccitata che tu abbia finalmente la possibilità di diventare la prima presidente donna degli Stati Uniti, scrive una. Un susseguirsi di uomini da Washington a Obama considerato ridicolo dalle bambine perché le femmine sono più intelligenti dei maschi, così scrivono. Siamo un po' suprematista questo però, discorso. Comunque, i bambini, devo dire che sono ancora forse tra i pochi che ci scrivono ancora lettere, bigliettini a mano. Non è sempre detto, perché anche loro ormai fin da piccoli prendono confidenza con smartphone e tablet. E devo dire che quella della scrittura a mano, di scrivere un po' una lettera, tu le scrivi ancora, Andrea? Io sì, ho deciso che ricomincerò a mandare cartoline, trovo che siano affascinanti. Allora, mandate qualche cartolina anche noi a Cuore Denari. Stanno già arrivando gli auguri di buone vacanze via WhatsApp al 349-238-6666, che girerò naturalmente anche a Debora. Se volete mandarci anche un po' delle cartoline, magari riprendiamo la buona abitudine, cartoline, amanuensi. Bigliettini. Ne parliamo oggi con Candida Livatino, giornalista e peritografologo. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti voi, buone vacanze per chi è in vacanza. E certo, dottoressa, il suo ultimo libro, ti do del tu, Candida, comunque, sì, perché siamo colleghe. Perfetto. Si intitola Scrivere con il cuore, ricevere una lettera d'amore, anche solo una semplice cartolina scritta a mano, lo dicevamo anche con Andrea e lo sappiamo, è un evento sempre più raro, ma indubbiamente hanno un fascino speciale, no? Insomma, è un bigliettino, ti dice qualche cosa di più del messaggino dell'SMS, perché insomma sono tanti messaggi anche che passano nel nostro modo di scrivere e anche nella nostra grafia. Certo, esattamente così. Purtroppo ormai per posto riceviamo solo fatture o bollette. Provate a immaginare ricevere una bellissima lettera d'amore scritta a mano, un ti amo scritto a mano, piuttosto che scritto al computer o al messaggino, al WhatsApp. Vale molto di più il profumo della carta, anche il cuoricino è già prestampato, non facciamo neanche più fatica a disegnare un cuore. Quindi riprendiamoci in mano questa abitudine, come diceva prima appunto il tuo collega. Infatti attraverso un semplice scritto esprimiamo le nostre emozioni, il nostro io, quello più nascosto, quello che non vogliamo far trasparire agli altri. Infatti, come diceva padre Girolamo Moretti, che appunto è il padre della grafologia scientifica, diceva: la mano traccia il gesto, ma è l'anima che esprime la forma, ed è bellissimo. Senti, il sottotitolo del tuo libro dice che ci fa intravedere che dalla grafia sia addirittura possibile stimare un'affinità di copia, ma è possibile? Allora, quando c'è una donna o un uomo che ci corteggia, diciamo: scusa, scrivi qua un attimo che vedo, sembra... Sì, sembra strano, però in realtà io aiuto il lettore a farsi un'idea sulla compatibilità di coppia e lui o lei stessa, appunto osservando la scrittura della persona che interessa e confrontandolo con quelle che trova nel libro, a scoprire qualcosa di più di lei o di lui. Questo è utile prima, ma anche dopo l'inizio di una relazione, quando ancora non si conosce il partner, quando siamo innamorati. Quindi tu non hai mai sbagliato un partner, Candida? Guarda, in realtà io mi stavo, posso dire una cosa privata che non ho raccontato a nessuno, ma insomma, voi mi siete simpatici, ve lo racconto. In realtà io mi stavo sposando con due partner diversi, ovviamente. Dopo una settimana, prima del matrimonio, una settimana, 15 giorni prima, li ho lasciati. Poi invece mi sono sposata con una terza persona, sono sposata da ben 32 anni, senza nemmeno guardare la scrittura, perché ancora non facevo la grafologa, ma aiutata dall'intuito e dalla sensibilità che ci contraddistingue un po' per chi fa questo tipo di lavoro. Vedi, vedi che, come si dice, tra i due contendenti, no? Il terzo gode. Allora, senti Candida, io qua il professor Andrea Salogna, che è un medico, no? È il nostro direttore scientifico del progetto Salute Uomo, di cui parleremo tra poco. Mi spieghi perché i medici scrivono così male? Non ne trovi uno che abbia una grafia leggibile? Non è esattamente così, è una nomea, perché il medico deve scrivere tante ricette, anch'io quando devo scrivere tante cose c'è questa velocità del gesto grafico, però se viene da me, a parte io conosco anche dei medici che scrivono molto bene, se un medico viene da me per farsi analizzare sicuramente scrive rilassato e scrive, non avrà quel movimento appunto della velocità del gesto grafico, perché deve farne tante di ricette, quindi io direi che è una nomea, non è vera questa cosa. Pensa che la scrittura interessa anche i neurologi, Andrea, è vero? È verissimo, è assolutamente vero. Io non ho le competenze, le carte in mano come la dottoressa per poter dire da qui interpreto questo, questo e quest'altro, però è certo vero che il modo in cui si scrive da un punto di vista neurologico e di conseguenza psicologico hanno grande importanza. Trovo un po' più difficile, se posso permettermi, da persona che si occupa di medicina della sessualità da tanti anni, derivare la compatibilità di coppia semplicemente da un tratto grafico, perché mi verrebbero a mancare tutti gli altri sensi, dall'odore alla vista, all'udito e al tatto, che in un segno grafico, ecco, insomma, mancano. Aggiungiamo anche però questo dettaglio e voglio ricordare il titolo del libro di Candida Livatino, Scrivere con il cuore. E l'invito ritorna: scrivete biglietti, scrivete cartoline, una lettera d'amore, anche la lista della spesa aiuta. Brava, bravissima, bravissima, esattamente così. Scrivo lettere, ci scrive Paolo, con la stilografica e inchiostro turchese. Anch'io. Che raffinato, raffinato! Allora, però devo dire una cosa, se viene da me per farsi analizzare, non deve scrivere con la stilografica, ma deve scrivere con la penna biro, perché per me è molto importante controllare la pressione che si imprime sul foglio. Più una persona calca sul foglio, più una persona è dotata di grinta e determinazione. Se non calca vuol dire che insomma è un po' fragile, non ha la forza d'urto per reagire agli eventi negativi della vita. Allora, ecco, questo è importante. Non ti manderò mai un messaggio, Candida. Comunque, solo SMS. Gabriele ci scrive, io non scrivo né firmo mai nello stesso modo. Cosa significa? Molto interessante, anzi ringrazio Gabriele per questa domanda. Allora, la firma rappresenta l'io privato, quello l'io pubblico, mentre il testo rappresenta, il testo rappresenta l'io privato e la firma rappresenta l'io pubblico. Spesso la firma infatti è diversa dal testo, perché una persona non vuol far vedere agli altri che in realtà nel suo privato. E quindi la firma è il nostro biglietto da visita, il modo in cui ci rapportiamo con gli altri, quindi ci sono spesso di rigori, svolazzi. È un capitolo che appunto ho dedicato anche nel mio nuovo libro. Candida, un altro messaggio che sta arrivando è: chi scrive con la scrittura stampatello non vuole mandare messaggi, non vuole farsi riconoscere? Bravissima, esattamente così, perché lo stampatello è una scrittura spersonalizzata e infatti quando io analizzo faccio le perizie per le lettere anonime sono scritte tutte in stampatello, perché la persona non vuol far vedere chi in realtà è, anche perché il movimento è uguale a scrivere al computer. E purtroppo i giovani d'oggi scrivono in stampatello perché non hanno più la capacità di fare quel movimento che ti dà la curva, no? Questo movimento curvo, perché non c'è più la manualità, manca di manualità, quindi lo stampatello è una forma di mascheramento della persona. È come mettere un filtro tra sé e l'altro, quindi tu non devi conoscere chi sono io, lo decido io. Allora, intanto nel salutarti ti ringrazio da parte di Loredana, che è un medico, e, di, sì? e scrive: per fortuna c'è la grafologa Livatino che salva i medici che scrivono chiaramente. Allora, noi, sì, anche se poi scrivono o non scrivono bene, a noi non importa, tanto che il medico scriva in modo certo, con una grafia bella o comprensibile o incomprensibile. L'importante è che il medico faccia una buona diagnosi, brava, perché, e abbia dei buoni contenuti. Poi la scrittura, insomma, li bacchettiamo un po', perché è anche un modo di dire, ma Loredana certo. sicuramente scriverà benissimo e avrà una grafia che racconta molto di lei. Grazie sì. allora a Candida Livatino per essere stata con noi. Grazie a voi. Volevo citare il mio sito, se possibile. Vai. Che è livatinocandida.it. Molto semplice. Sì, molto semplice, livatinocandida.it. Grazie, grazie a te. Grazie a voi, buona giornata e buon tutto e buone vacanze. Grazie, buone vacanze a voi che state partendo, ma restate con noi, 800 24 00 24, vi accompagniamo anche nella località di vacanza, appuntamento con Salute Uomo. Qua Andrea è già pronto, abbiamo dedicato questo spazio che, lo ricordiamo, è un appuntamento mensile dedicato alla promozione della salute maschile a tutto tondo. Abbiamo fatto tanta strada, abbiamo toccato anche temi a volte un po' spinosi di cui gli uomini non amano parlare, per imbarazzo, timore, pudore, vergogna. Per certi versi, Andrea, siamo stati molto coraggiosi. Molto ecco, coraggiosi. Stiamo raccogliendo degli ottimi risultati, abbiamo seminato informazione e stiamo coltivando la salute. Questo è un messaggio di una bella mail che ci è arrivata proprio nei giorni scorsi di un ascoltatore che ci ringraziava perché attraverso una delle puntate che abbiamo dedicato alla salute maschile ha preso il coraggio, è andato a farsi fare dei controlli e adesso sta bene. Questo è un bel regalo, perché nell'arco di tutti questi mesi abbiamo sempre comunicato, anche senza vergogna, temi che in realtà spesso sono cause di vergogna proprio per i maschietti. L'abbiamo fatto con garbo, abbiamo sdoganato dei concetti spesso, ma, diciamo, misconosciuti o nascosti volutamente, e l'abbiamo fatto probabilmente con successo, perché questa email, a mio avviso, è espressione della bontà del lavoro di tutti questi 2 anni insieme di interessanti, diciamo, incontri da un lato e di scienza per il pubblico dall'altro. Allora, ricordiamo che c'è sempre la pagina di Salute Uomo, dove potete, una pagina molto ricca. Sì, lì abbiamo alcuni di tutto. Tuoi colleghi mi hanno detto: sì, noi andiamo su Salute Uomo, c'è già una selezione delle ricerche, quindi no? C'è una ricerca ogni volta differente, abbiamo messo le news di ricerche sempre dedicate ovviamente al mondo maschile, e vogliamo ringraziare target, anche tutti quelli che hanno gentilmente, anche con loro sforzo, sostanzialmente contribuito a questo. Abbiamo dei contenuti dedicati a chi abbia voluto in realtà dirci di sé in forma anonima e non solo. Abbiamo messo dei questionari ai quali qualcuno ha anche risposto, certo, dedicati proprio alla salute maschile. E poi l'editoriale di Andrea Salonia. E poi che ci sono i miei editoriali, che sono di mese in mese, che ci aiutano sempre a riflettere. E oggi per l'ultima puntata parleremo appunto della professione camionista, un'occasione anche per parlare di prevenzione di salute a tutte le persone che svolgono un'attività sedentaria, sono alla guida per ore e ore. Parliamo di camionisti, ma possono anche essere gli agenti di commercio, i taxisti, certo, ma anche consigli per chi la macchina la usa poco ma affronterà un lungo viaggio in macchina per andare in vacanza. Ricordate l'ultima parte della trasmissione, poi candidatevi per queste Olimpiadi della cucina. Se voi doveste partecipare, con quale specialità vi presentereste? Chiamateci. Cuore e denari. Il nostro uomo svolge una professione molto impegnativa che richiede passione, competenza, anche spirito di sacrificio, Una professione che, per le sue caratteristiche, per i modi e i tempi in cui viene svolta, impatta in modo significativo sullo stile di vita che non sempre risulta adatto a promuovere benessere e salute. Parliamo della professione del camionista. Andrea, ai camionisti è dedicata questa puntata. E a chi sì, in questo lavoro un po' si riconosce, anche sì, se non necessariamente alla guida di un tir. Perché parliamo di camionista? Perché le nostre gentili signore non si offendano, è prevalentemente o tipicamente riconosciuto come una professione maschile da un lato, dall'altro perché è un po' un coacervo, è un po' un insieme di tanti aspetti legati alla salute maschile, perché se solo dovessimo riconoscerne alcuni, impatta sulla salute di tipo ortopedico, osteoartromuscolare, impatta sulla salute cardiovascolare metabolica, impatta sulla salute urogenitale, che tanto mi sta a cuore, e anche sulla salute otorino-audiologica. Quindi quattro ambiti molto importanti che hanno lungo tutta la vita dell'individuo di sesso maschile un impatto non poco importante. Quindi Andrea, camionista, cercasi per diretta, la puntata è dedicata a voi, localizzatevi, chiamate il nostro numero verde 800 24 00 24 per raccontare luce e ombra della vostra professione dal punto di vista del vostro benessere. Raccontateci anche qual è il vostro tallone d'Achille e anche che cosa fate per mantenervi in forma. Certo, perché esistono problematiche legate alle mani. Se avete problemi legati alle mani, legate alle vibrazioni da ore prolungate al volante, se mai aveste problemi legati alla vostra prostata, al far la pipì, ne abbiamo parlato tante volte, ma questa è la professione caratteristicamente associata ai disturbi della sfera menzionale. Perché? Perché purtroppo la posizione seduta, persistentemente seduta, induce un'infiammazione più probabile a livello prostatico e da qui la conseguenza di tutti i disturbi legati alla fase di svuotamento, cioè faccio più fatica, devo andare più volte, devo andarci con urgenza, oppure non riesco a farlo, oppure quei disturbi che chiamiamo prostatite, che rientrano in un coacervo ancora una volta di numerosi problemi, che partono dall'idea di avere bruciore, fastidio, una sensazione di io sento di averla prostata, che è tipicamente riferito dalle persone che stanno spesso alla guida per lunghe ore, per lunghi tratti. Quindi e che mettiamo anche i taxisti, gli agenti di commercio. Assolutamente sì. Sai qual è la differenza? Che mi piace pensarlo in modo un po' poetico, e l'ho anche scritto nell'editoriale di questo mese, che i nostri camionisti siano un po' dei viaggiatori e che in questi loro viaggi abbiano la possibilità di vedere cose, pur rimanendo solo anche nel nostro tacco, cioè nella nostra Italia, che difficilmente gli altri che fanno uso reiterato dell'automobile hanno. Quindi sono esposti a climi diversi, insomma, sono un po', se vogliamo, emblematici dello stato di salute al maschile. Allora, faccio una piccola precisazione, ma Andrea Salogna l'aveva già sottolineato. Non stiamo dicendo che il camionista è solo una professione esclusivamente maschile, anzi sempre più donne stanno entrando, ci sono... No, sempre una componente femminile, no, che si sta allargando, ma noi a Salute Uomo parliamo di uomini. Certo. E allora anche nei taxisti ci sono tante donne taxiste, sempre tante donne che fanno gli agenti di commercio, e noi a Salute Uomo di uomo parliamo e quindi ci occupiamo della di questa parte maschile, della sfera maschile, e poi dedicheremo naturalmente una puntata anche alle donne, signore, alle signore, ma se siete donne e volete chiamarci, noi siamo felici. 800 24 00 24. Il profilo del camionista è molto interessante, tanto pensa che Andrea, che se ne è occupata anche una ricerca dell'Università di Modena e Reggio Emilia. In linea con noi abbiamo la professoressa Margherita Bergomi, che è stata professore ordinario dal Dipartimento di Scienze di Sanità Pubblica della stessa università, dove ha curato una ricerca sulla sicurezza stradale tra i camionisti, che aveva proprio come obiettivo quello di studiare lo stato psicofisico e i comportamenti dei guidatori. Buongiorno professoressa, bentornata. Buongiorno. Professoressa, perché tra le tante professioni avete scelto di studiare proprio il camionista? È perché quella dei camionisti è un'attività lavorativa molto complessa, che è caratterizzata da un notevole impegno mentale, emotivo, oltre che fisico. E sono numerosi studi hanno evidenziato che i conducenti di veicoli pesanti sono soggetti ad alto rischio di patologie stress correlate. La guida è un fattore stressante molto importante nella vita di tutti e a maggior ragione nella vita dei, guidatori professionisti che quindi guidano tante ore di seguito. A Roberto, che mi manda un WhatsApp scrivendomi che il mestiere del camionista, se sappiamo che il mestiere del camionista non rientra nei lavori usuranti, nonostante si viva letteralmente dentro una cabina dove si lavora, si mangia e si dorme, volevo segnalare a Roberto e a tutti voi che abbiamo analizzato la professione camionista dal punto di vista proprio squisitamente professionale in una puntata in questa settimana, mercoledì, di cui potete naturalmente trovare il podcast. E quindi adesso, oggi, guardiamo la parte salute e prevenzione. Professoressa, è una professione che anticipavo con Andrea Salonia, condiziona molto anche lo stile di vita delle persone che la svolgono. Che cosa avete scoperto in modo particolare? Che le ore di lavoro possono essere anche molto rilevanti, superiori alle 8 ore lavorative, lavoro complessivamente considerato, guida più attività di carico, scarico, eccetera. Poi, visto che è un lavoro che si svolge prevalentemente fuori casa, generalmente i camionisti consumano i pasti appunto in trattoria, in ristoranti, anche se abbiamo rilevato che c'è una maggiore attenzione a questo aspetto, alle abitudini alimentari, e hanno dichiarato quelli che consumano in trattoria di consumare un piatto unico, solo il primo generalmente, quindi non un tempo, un miglioramento rispetto al passato. Un tempo, professoressa, si ricorda, si andava nelle trattorie e dice: là si mangia bene, è una trattoria dove si fermano i camionisti. Camionisti, sì. E un tempo facevano primo, secondo, dolce, eccetera. Adesso c'è una maggiore attenzione, quindi limitano l'apporto calorico, limitandosi appunto ad un piatto unico. E dal punto di vista della salute, come cosa è emerso? Un altro fatto molto rilevante, secondo noi molto importante, sia per i riflessi che può avere sulla sicurezza stradale che sulla salute, è che i camionisti, una quota rilevante, circa un terzo di quelli da noi analizzati, dorme poco, dorme meno di 6 ore per notte. E questo può avere riflessi sia sulla salute, c'è una relazione tra le ore di sonno e il peso corporeo, molti dei camionisti sono in sovrappeso, l'80% dei camionisti da noi analizzati sono in sovrappeso o addirittura obesi, francamente obesi, e può avere una notevole importanza anche per la sicurezza, per la vigilanza, l'attenzione, eccetera, perché può condizionare la sonnolenza durante le ore di lavoro. Certo, la qualità del sonno è importante, e quando parliamo di sonno parliamo… la qualità del sonno, ma anche la quantità. Sì. Parliamo anche di sonno e parliamo anche di apnee, è un tema molto delicato che avete indagato? Abbiamo indagato tramite un questionario, non abbiamo fatto degli esami approfonditi, quindi non possiamo dire con sicurezza di aver rilevato delle apnee notturne, però alcuni soggetti, pochi per fortuna, hanno dichiarato di avere delle apnee notturne, pochi. Allora, ha qualche altro elemento da aggiungere per completare l'identikit del nostro uomo? Molti dei soggetti che abbiamo preso in esame avevano dei livelli pressori alti, moderatamente alti, cioè ipertensione di grado lieve, però c'era una notevole quota, circa l'80%, che aveva dei livelli pressori elevati, insomma, moderatamente elevati, anche se pochi erano in trattamento farmacologico e quindi avevano ipertensione curata, insomma, certo, in terapia. Allora, professoressa, intanto aggiungo un messaggio che ci manda Piero, che fa 100.000 chilometri ogni anno con il camion, riconosce tutti i disturbi che avete elencato, per cui professoressa Bergomi, brava, ma lui aggiunge gastrite e postura. Andrea, Sì, io se posso aggiungere, trovo importanti tre elementi che la professoressa ha appena sottolineato. Il primo è questo: trovo sempre molto difficile catalogare una professione, un'attività stressante o meno, perché sono difficili da individuare quegli indici che permettono di mettere nero su bianco il fatto che lo stress abbia un impatto reale sulla vita di un individuo. L'attività, la professione del camionista, a mio avviso, è una di quelle che maggiormente ci permette di mettere nero su bianco questo aspetto. Lo stress è legato a tutti gli ambiti di cui la professoressa ben diceva, dalla privazione di sonno, dal sonno interrotto, un sonno non correttamente portato, l'eccesso di peso, ma non solo, la sedentarietà di base porta sostanzialmente a una variazione del metabolismo. Abbiamo scoperto, e la ricerca nel corso degli anni ha permesso di dimostrare, che non è tanto e non solo il peso ad essere elemento importante. Ci sono degli obesi che sono, dal punto di vista metabolico, magri, e ci sono invece degli obesi che sono effettivamente grassi. Nel corso delle puntate di Salute Uomo abbiamo spesso detto che cosa significa, ad esempio, essere grassi, perché all'interno della nostra pancia c'è grasso. Abbiamo detto di quel famoso numero di 102 centimetri del girovita. Questo è un altro elemento importante. Il terzo aspetto che la professoressa ha sottolineato è quello di tipo cardiometabolico. Tutti i dati sembrano dimostrare che la postura, lo stress, l'eccesso di peso si associano a alterazioni dello stato cardiovascolare dell'individuo, il metabolismo alterato a sua volta. Il valore di pressione elevata, più o meno rilevante, è di per sé particolarmente importante. Se tutto questo lo mettiamo associato allo stress, ovviamente il rischio di eventi cardiovascolari maggiori è importante. Ci metterò poi una piccola postilla uroandrologica, ma questo magari lo discutiamo più tardi. Grazie allora alla professoressa Bergomi per essere stata con noi, per aver tratteggiato con ottima precisione l'identikit, il profilo del nostro uomo. Che noi continueremo a seguire naturalmente, aiutati dai vostri interventi all'800240024. Professoressa Bergomi, buone vacanze, grazie. Grazie infinite, grazie, arrivederci. Allora, il quadro è complesso. È molto allora complesso. Noi ci facciamo dare una mano anche dal dottor Gianluca Melegati, medico sportivo primario del centro di riabilitazione dell'Istituto Ortopedico Galeazzi di Milano. Ma finalmente bentornato. Bene. Bentornato Gianluca. Meno male. Bentornato Gianluca. L'abbiamo grande piacere. L'abbiamo riacciuffato. Sì. Allora, dottore, allora sai la che noi subito apparteniamo alla stessa famiglia, vero? Sì. Perché siamo tutti membri di uno stesso grande gruppo, per cui siamo molto fieri di questa cosa. Certo. Bene, praticamente siete cugini. Allora, dottore, allora mettetevi a lavorare a disposizione dei nostri ascoltatori. Sedentario, costretto alla guida ore e ore, è una condizione che non è certo favorevole per l'apparato muscoloscheletrico. Assolutamente, purtroppo la categoria del guidatore professionista è una categoria a rischio di sviluppare problemi legati alle posture fisse. I problemi legati alle posture fisse mantenute a lungo sono problemi dell'apparato osteomuscolare, quindi problemi legati al mal di schiena, alla tensione cervicale. Questo proprio per il fatto che una posizione mantenuta per così lungo tempo crea una sorta di debolezza muscolare. I muscoli non solo diventano deboli, ma anche si retraggono. Basta pensare alla posizione come seduta. Come le gengive. Basta pensare alla posizione seduta a 90 gradi delle nostre anche, quindi con una retrazione della muscolatura flessoria dell'anca e una perdita di forza dei glutei. Questo sviluppa una sorta di atteggiamento di iperestensione che si manifesta poi quando il camionista scende dal camion, perché molto spesso il problema del mal di schiena non è un problema che il camionista avverte durante la guida, ma spesso anche dopo la guida, quando scende dal camion. Durante la guida ci sono sistemi che ci permettono di ammortizzare un po' questo problema, corsetti, sedili ammortizzati e quant'altro, ma il problema rimane, il problema della posizione mantenuta a lungo rimane, e se non si corre ai ripari utilizzando dei metodi di cui parleremo, allora è molto difficile che si possa gestire una situazione di una vita di lavoro, perché i muscoli deboli retratti poi sono accompagnati accompagnati da una compressione degli stessi muscoli e quindi una scarsa irrorazione sanguigna e quindi problemi circolatori, problemi legati a un disturbo neurologico, compressione radicolare, eccetera. Quindi una serie di problemi che vanno affrontati. Posso aggiungere una cosa, Gianluca, legata proprio all'aspetto muscolare, che è molto più urologica, se vogliamo, quindi molto più vicino al mio mondo. Molto spesso le persone che hanno posture persistentemente sedute per lungo tempo, quali i camionisti nello specifico, hanno quello che si chiama ipertono del pavimento pelvico, che ha una ripercussione sulla funzione urologica enorme. Che cosa si intende per ipertono del pavimento pelvico e che cos'è il pavimento pelvico? Il pavimento pelvico è il pavimento della nostra pancia, al di sotto del bacino, e sostiene praticamente la prostata, la vescica, la pancia nell'insieme. Il problema è che lì è tutto fatto di muscoli e una postura persistentemente seduta senza la possibilità di far fare esercizio al medesimo spesso rende ragione di una iperattività che a sua volta impedisce un corretto svuotamento vescicale e questo aumenta le difficoltà minzionali, quindi urologiche, tipiche dei camionisti. Allora, abbiamo dato un quadro, insomma, abbastanza complesso e complicato, sì. Però ci avete promesso che ci avreste suggerito anche delle soluzioni, sì, e avreste anche dato consigli di prevenzione. Una situazione abbastanza delicata, perché il camionista non è che come l'impiegato può sgranchirsi le gambe e lasciare il camion. Il camion, certo, è sempre vicino, è il suo luogo di lavoro, è l'oggetto della sua passione, è il suo cuore, ma è anche un po' la sua casa, e non è come la scrivania: uno scende, si fa un giro, va al bar vicino. Allora, quindi dobbiamo cercare di dare dei consigli, e poi i nostri amici che ci stanno ascoltando, che svolgono questa professione, ci daranno anche delle indicazioni per essere sempre più concreti. Intanto diamo una mano subito a Simone D'Ancona. Buongiorno Simone. Buongiorno a tutti. Buongiorno Simone. Allora, lei è uno dei nostri uomini. Esatto. Faccia lavorare i nostri esperti. Beh, niente, io faccio l'autista da 6 anni, e non sono, diciamo, un professionista, nel senso che tutti i giorni rientro a casa e la mia giornata è fatta di molti scarichi, quindi io scendo spesso dal camion, quindi non ho una posizione fissa per molte ore. Però questi problemini, diciamo, che avete menzionato voi, ce l'ho. Li conosce? Esatto, e in più sono ciclista, quindi... non ho capito, diciamo, problema, in più vado in bici in bici da strada. Quindi... ma guardi, qua sfondo una porta aperta col dottor Melegatti, parlare di bici lo invita a nozze. E quindi... Quindi il mio problema è che ora di seduta in bici sono costretto ad alzarmi perché, diciamo, detta molto così, alla buona, mi si addormenta un po' tutto quanto. Allora, bravo, le dica alla buona, perché Salute Uomo è nato proprio con questo obiettivo, sì. Dare pane agli al uomini pane, l'opportunità al di parlare di temi che per tanto tempo hanno ritenuto scomode, sì, poi non si trovano le parole, eccetera. Allora, ve lo affido, dottor Melegatti. Bene, allora, intanto saluto Simone. Simone presenta una situazione, secondo me, che ben si presta a... variare un po' l'attività, nel senso, non avendo questo impegno così prolungato, può trovare il tempo per migliorare la situazione legata alla postura fissa, per cui la bicicletta va molto bene in generale. Devo dire che sfruttare la sola bicicletta come alternativa alla guida mi lascia un po' perplesso, nel senso che, pur essendo io un estimatore, un fautore dello stare in bicicletta, la bici presenta anch'essa posizioni fisse da mantenere a lungo. Allora, la bicicletta va benissimo perché ci dà un sacco di fattori positivi dal punto di vista aerobico, della forza muscolare, eccetera, però io alternerei e cercherei di integrare il lavoro in bicicletta con un lavoro, per esempio, posturale o un lavoro di stretching e di rinforzo mediante altre attività. Come ad esempio? Come ad esempio semplici esercizi un paio di volte alla settimana da effettuare in casa al tappeto o mediante l'utilizzo di sistemi un po' utili come i sistemi a sospensione che sono degli attrezzi semplicissimi da usare in casa che ti permettono di sviluppare la forza degli arti superiori e degli arti inferiori e che hanno quindi una correlazione diretta con la guida. Ne parleremo più avanti quando nei consigli. Però quindi il consiglio che mi sento di dare è non mollare la bicicletta, naturalmente, però certo, aggiungere alla bicicletta altro. Senta, invece un ascoltatore che fa, devo contare bene gli zeri, allora gli zero 125.000 km all'anno, ha risolto i suoi problemi con un'ora a settimana di squat pesante. Lo squat pesante è un'attività che io metto tra le 4-5 attività di sostegno per questa attività lavorativa. Lo squat prevede un movimento in carico assiale dove si sviluppano tutti i muscoli degli arti inferiori e i muscoli del tronco, sì. E quindi è un'azione veramente importante perché unisce allungamento e rinforzo muscolare, per cui sono d'accordo, lo squat è uno degli esercizi che io consiglio. Allora, intanto arrivano tantissimi messaggi, cercherò di leggere tutte. Addormentamento. Possiamo peraltro fare una postilla urologica al nostro Simone, certo, di prima, perché che lui aveva che si va in bicicletta e poi è tutto addormentato. No, esatto, peraltro va in bicicletta e quante volte l'abbiamo detto, mi raccomando, utilizziamo dei sellini che abbiano in qualche modo la capacità di tutelare la nostra prostata, le nostre tuberosità ischiatiche. Ci sono molti sellini adeguati a questo fine, cerchiamoli nei negozi ovviamente dedicati. Il consiglio? Il consiglio è certamente andare in bicicletta, il dottor Melegatti ben ce l'ha detto, ma utilizzando dei sellini dedicati. La parte dell'addormentamento purtroppo è cosa che spesso persiste per ore, talvolta anche più di ore. È un buon esercizio la possibilità di alzarsi, di continuare a fare esercizi di altro genere, non solo in bicicletta, come bene il dottor Melegatti ci ha detto, è sicuramente molto utile. Allora, adesso noi abbiamo i mercati, sì. Poi consigli pratici, sentiremo Roberto da Latina che ci presenterà il suo caso e che permetterà al dottor Melegatti e ad Andrea Salonia di dare proprio indicazioni concrete. Intanto un suggerimento arriva da André, autista professionista internazionale. Quando può alla sera, ci scrive, cammino più che posso, sono sul camion 7 giorni su 7 facendo trasporti di alimentari, quindi deperibili. Consiglio verdure e bere tanta acqua. Adesso noi andiamo a sentire i mercati e poi ritorniamo subito dopo insieme. Raccontateci qual è il vostro tallone d'Achille, non solo se siete camionisti, ma anche agenti di commercio, taxisti, insomma passate tante ore alla guida, ma anche tante ore seduti, perché la scrivania, faremo un confronto camion-scrivania, ma raccontateci anche il modo in cui cercate di mantenervi in forma. 800 24 00 24, due esperti a disposizione, mercati e poi di nuovo insieme. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Cuore e Denari. E noi torniamo sulle nostre strade e ci sediamo ancora a fianco del nostro uomo, il nostro camionista, esatto. A cui abbiamo dedicato la puntata di oggi di Salute Uomo, perché sono tanti i camionisti che ci scrivono per chiederci dei consigli, solo per mandarci anche un saluto, per ringraziarci per i consigli di Cuore Denari. Quindi questa vuole essere un po' la nostra risposta, un po' alla Cuore Denari, per ringraziarli del loro ascolto, della loro fedeltà, della loro amicizia e del lavoro che svolgono, un lavoro molto importante per tutta la comunità. Abbiamo Roberto che ci chiama da Latina, poi Giuseppe da Napoli e poi Isaele da Crema. Grazie ai camionisti in primo luogo che animano così la nostra puntata, e quindi io passo le vostre telefonate. Roberto, buongiorno. Buongiorno, è una lunga attesa per poter parlare con voi. Io faccio il camionista da 28 anni ormai. E faccio il camionista, quelli dei più brutti, quelli che parte la notte a mezzanotte per fare le consegne ai vari negozi alimentari, senza che cito il nome perché sarebbe pubblicità occulta. E quindi faccio anche pacchinaggio quando andiamo a fare la spesa. Penseremo a lei, Roberto. Grazie. E io praticamente parto la mezzanotte per andare a caricare, quindi carico il camion, quindi poi vado nei punti vendita, che sono 4, 5, 6 punti vendita, e faccio anche da facchino perché mi scarico col Trasfalz, quindi io di movimento ne faccio tantissimo, faccio circa 120.000 km l'anno. La schiena, so già che purtroppo la schiena farà sempre male. Io ho risolto il problema del peso perché grazie al professor Giovanni Lesti, con un'operazione, perché io pesavo 140 kg e oggi ne peso 86. Però quello che mi preoccupa è la prostata, quello mi terrorizza, perché io so di colleghi che con il lungo andare hanno riscontrato gravi problemi e gravissimi problemi, e io sono terrorizzato. Che consiglio possono dare questi dotti che sono suoi ospiti, che mi complimento con loro, per prevenire qualcosa di peggiore alla prostata? Cosa si può fare per grazie Roberto. Allora, sulla schiena ci ha messo già una pietra sopra dottor Melegatti, ma sono certa che lei qualche consiglio lo darà ancora. Passo subito la parola ad Andrea, poi torno dal dottor Melegatti. Beh, ci sono due cose che il nostro Roberto ci ha appena raccontato. La prima è che una persona che parta tutte le notti a quegli orari e che lavori gran parte della notte facendo un'attività così pesante ha un'alterazione del sonno, meglio del ritmo sonno-veglia, che purtroppo ha un impatto sulla salute in generale e anche sulla salute uroandrologica, estremamente importante. Si vengono a perdere banalmente quelle che sono alcune delle fasi importanti del cosiddetto sonno REM, sonno profondo, che sono più vicine alle ore del mattino, e noi abbiamo durante le fasi di sonno REM, in cui la coscienza è totalmente mancante, delle erezioni fin da quando siamo in pancia alla mamma, fino al periodo fetale, fino alla più tarda senescenza. Queste erezioni servono a preservare lo stato di salute del pene, funzionale e strutturale. Questo purtroppo è un elemento importante. Il secondo, quindi anche per tutte le persone che lavorano, per i turnisti, camionisti e non solo. Esatto, ecco. Esattamente. A ciò Roberto aggiunge la posizione e non solo, il facchinaggio, che di suo è estremamente importante. Poi Gianluca Melegatti probabilmente avrà qualcosa da dire in questo senso. Come fare prevenzione della prostata? In primo luogo, consiglio sempre valido, il mio anziano direttore me lo raccontava sempre: mai mettersi alla guida con la vescica piena, perché due problemi. Il primo è un rischio legato all'inevitabilità degli eventi, cioè a un incidente, e mettersi alla guida con la vescica piena purtroppo espone a un maggior rischio di rottura della vescica in caso di trauma violento improvviso, quale quello che si verifica con un incidente. Il secondo elemento, mai mettersi alla guida senza aver urinato prima, soprattutto per lunghi tratti. Consiglio di prevenzione: non dimenticarsi che la prostata, la vescica, l'apparato urogenitale fanno parte del nostro corpo, quindi minzioni regolari sempre, non disattendere il consiglio del bere acqua regolarmente, e qui un po' sposo la categoria, una valutazione urologica annuale, tanto più si diventa anziani e soprattutto a partire da? Io direi attorno ai 50 anni, anche prima per vari motivi che forse abbiamo già discusso nel corso delle puntate, ma attorno ai 50 anni sicuramente sì, e non appena cominciano a comparire disturbi che possono essere disturbi legati al modo in cui si urina, la maggiore frequenza, la maggiore urgenza, l'impossibilità di procrastinare l'urgenza stessa, cioè il desiderio di urinare, oppure arrivo davanti al water e non riesco a partire, o devo spingere con l'addome, o uno sgocciolamento dopo la minzione. Tutti questi sono segni di, in qualche modo, disagio della prostata, e in questo senso una valutazione urologica periodica è importante. Allora, dottor Melegatti, invece la schiena, sì, si può... Roberto, sì, voglio dire che lo ammiro tantissimo, Roberto, perché fa un lavoro veramente... massacrante, esatto. Veramente lo ammiro, e però volevo anche dire questo a Roberto, di non rassegnarsi al mal di schiena, perché non è assolutamente detto che lui debba vivere con mal di schiena. Intanto provi a valutare un po' se questo mal di schiena non ha qualche correlazione non tanto con la guida, ma quanto con quello che fa quando scarica e carica. Quindi perché non pensare, magari lo fa già Roberto, perché non pensare a rivedere un po' com'è il gesto che lui compie quando carica e scarica? Lo farà sicuramente bene, però un'idea, voglio dire, un po' di attenzione, quindi piegandosi sulle ginocchia, evitando di piegare il tronco in avanti, una verifica va fatta, e poi magari utilizzare un corsetto lombare proprio per quella fase del suo lavoro. Allora, intanto arrivano i suggerimenti dei nostri amici. Mirko da Vicenza: per mantenersi in forma pratica il Nordic Walking ed è molto soddisfatto, ma anche Isaele da Crema mi segnalano dalla regia che ha un suggerimento per gli amici all'ascolto. Isaele, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Complimenti per la trasmissione. Grazie. Faccio una piccola deviazione per quanto riguarda il lavoro usurante. Vorrei invitare uno di quelli che siedono in queste stanze ovali a venire con noi magari una giornata e moltiplicarla per 30-40 anni e forse si renderà conto di che lavoro facciamo. Beh, detto questo, io faccio l'autista da 20 anni. Ecco, io una cosa che ho notato è che fare attività fisica anche durante il lavoro, quando si ha nella sosta notturna, che noi dobbiamo fare le soste di 11 ore consecutive, sì, può aiutare, oltre che fisicamente, anche nei riflessi durante il giorno, anche come metabolismo, può aiutare molto nel nostro lavoro. Io l'ho constatato, quando posso faccio una corsetta, mi prendo sulle mie scarpe da ginnastica. Insomma, cerco di un po' di compensare anche questo lavoro che è molto sedentario. Di compensare. Anche Giampiero da Modica ci scrive: svolgo questo lavoro da 10 anni, nei 4 giorni e mezzo che sto fuori casa mangio bene, verdure grigliate, insalata di farro con tonno, uova sode e frutta. Tra l'altro vi invito, perché nell'ultima parte della trasmissione avremo ancora Andrea Ribaldone con le sue ricette randagie, quindi tirate fuori la vostra oppure candidatevi per queste Olimpiadi, facciamo finta di andare anche noi alle Olimpiadi della cucina. Non ho mai messo chili e integro con 40 minuti di corsa quando sono a casa. Dottor Melegatti, c'è un tempo, un'attività che è da preferire alle altre? È un tempo necessario, no? Per ricavarne i benefici? Beh, intanto 40 minuti di corsa regolari sono una perfetta, un'ottima attività. Ma io direi però di non limitarsi all'attività quando si è a casa. Io credo che si possa trovare lo spazio, anche pochi minuti, tutte le volte che ci si ferma per una sosta. Quei pochi minuti vanno sfruttati, magari mettendo a terra il tappetino e facendo una decina di flessioni sulle braccia, una decina di piegamenti sulle ginocchia, qualche balzo, una risalita sulle punte e 2 esercizi di stretching, magari quando si ritorna alla guida. Stretching intendo 3 posizioni mantenute una 20 secondi, per esempio per migliorare la rotazione del tronco oppure per migliorare la mobilità delle spalle. Quindi esercizi semplici che si possono apprendere tranquillamente guardando su internet o documentandosi un minimo e che possono cambiare la vita delle persone, soprattutto persone che fanno questo lavoro. Andiamo a Napoli da Giuseppe. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno. Senta, io faccio l'autista da 35 anni, però da un anno a questa parte vedo che sto urinando un po' più spesso. Urina più spesso, sì. La sento un po' male, Giuseppe. Lo so. Vabbè, ma cerchiamo di attrezzarci, dai. Allora, fa il camionista da 35 anni, ultimamente urina più spesso. Ho fatto delle analisi e il risultato è che il PSA sta nei valori normali, consigliati, normali. Sì. Però non vorrei che fosse la prostata, non saprei se insomma questa oppure... vedi che questa prostata è un è un po' emblematica, sì. Gli inglesi direbbero è proxy, che vuol dire è un po' lo specchio dello stato di salute. In realtà forse la stiamo un po' mitizzando, però quello che il nostro amico di Napoli ci sta dicendo in realtà è veritiero. Prima di tutto perché è molto facile che la necessità di andare più spesso ad urinare sia in qualche modo legato ad uno stato di disagio prostatico. Si pensa sempre che una prostata grande condizioni questi disturbi, non è sempre così, anche prostate piccole possono condizionarle, soprattutto quando si comportano in modo sbagliato, sono tali da ostruire la minzione stessa. Non per forza di cose il valore del PSA è espressione emblematica dello stato di salute prostatica in senso benigno. Il PSA è un marcatore, una proteina che abbiamo nel sangue, prodotta esclusivamente dalla prostata, organo specifico ma non malattia specifica, che in altri termini vuol dire che non ci dirà come sta la prostata a tutto tondo, soprattutto dal punto di vista funzionale. Se posso aggiungere una cosa, Nico, che il nostro amico prima da Cremona, mi sembra fosse, ci ha detto, ed è legata alla condizione di attività aerobica, cioè la corsa, che lui ci ha descritto come panacea un po' dello stato di salute, che è estremamente importante. Pochi hanno detto, pochi hanno segnalato, ad esempio, i disturbi che alcuni camionisti riferiscono legati all'udito, perché apparentemente i tre elementi principali che mi sono stati riferiti dai pazienti che arrivano in ambulatorio con questa lunga professione alle spalle sono disturbi alle mani per le vibrazioni persistenti, disturbi prostatici, ovviamente venendo dall'urologo, e il terzo è un calo progressivo dell'udito come da danno cronico. Per cui, se possiamo dare un suggerimento, perché di questo non abbiamo parlato, sempre una valutazione audiologica, almeno nel corso della vita, che ci permetta di escludere quei deficit di attenzione che possono derivare dal sentire meno i rumori, perché abituati quasi a un rumore persistente. Allora, adesso noi dobbiamo andare a sentire proprio le informazioni sul traffico, ma intanto, dottor Melegatti, le leggo la richiesta di Enrico da Bologna, così interveniamo subito. Escavatorista da 42 anni. Tutto vero, però la vescica si svuota bene. Il mio problema più grande sono le gambe. Devo scendere dopo mezz'ora, un'ora, perché non me le sento più, mi fanno male, ci scrive Enrico. Un altro, e così lei si prepara e andiamo, cerchiamo di rispondere a tutto. Un altro ascoltatore, camionista sempre: quando scendo dal camion non vedo l'ora di sedermi, aiuto. Andiamo a sentire le informazioni sul traffico, poi risposte miratissime del dottor Melegatti ai vostri quesiti. Cuore e denari. Siamo tornati insieme in questa puntata affollatissima, perché ci state mandando tantissime richieste, tanti consigli da parte vostra per compensare uno stile di vita che una professione rende non tanto tutelante della salute e del benessere. Dottor Melegatti. Bene. Allora, per il camionista che al male alle gambe. Sì. All'Enrico per il mal di gambe. Allora, il dolore alle gambe può essere legato a un problema compressivo o a un problema posturale del tratto lombare basso, quindi è sicuramente una situazione da valutare bene, perché io farei una risonanza per capire se non c'è un problema di stenosi del canale. Cioè, stenosi vuol dire restringimento del canale. Restringimento del canale entro cui c'è il midollo spinale e da cui partono le radici nervose. Ma una cosa più semplice, prima di passare a indagini un po' più sofisticate, Enrico dovrebbe valutare bene la sua posizione seduta e cercare di capire se la parte posteriore delle sue cosce non, per caso, non è troppo compressa sul sedile. Allora lui deve, da seduto, mettersi una mano sotto la coscia e sentire se c'è troppa pressione tra la coscia e il sedile. Se invece la mano riesce a passare facilmente, comodamente, senza sentire questa pressione della coscia, questo vuol dire che va bene, vuol dire che lui evidentemente è in una situazione che non crea troppa compressione muscolare alla loggia posteriore della coscia, perché questo potrebbe anche essere fonte di dolore alle gambe. Per quanto riguarda invece il camionista che non vede l'ora di sedersi quando scende dal camion, beh, sì, anche qui questo è un problema sicuramente legato proprio alla postura mantenuta a lungo e quindi alla incapacità da parte di questo signore di mantenere un buon controllo sia della forza che della flessibilità dei suoi muscoli intorno al cingolo pelvico, che non sono in grado evidentemente di sostenere il carico quando lui scende, quando lui esce dalla sua posizione, diciamo tra virgolette, comoda, che è la posizione seduta sulla sua sedia. Quindi fare una verifica per capire se c'è spazio, e sicuramente c'è, per migliorare la sua core, vale a dire la forza della muscolatura del cingolo pelvico. Grazie, dottor Melegatti. Abbiamo fatto anche una sorta di test. Mi piace molto. Mario, buongiorno da Siracusa. Buongiorno a tutti, complimenti per la trasmissione. Grazie Mario, allora, complimenti a lei che la segue. E quindi complimenti anche a lei che ci segue, e quindi segno che ha buon gusto. Grazie. Anche voi. Allora, io volevo dire un altro problema. Praticamente che riguarda il sistema nervoso. Noi, essendo, io mi alzo la mattina tutte le mattine alle 4, essendo in mezzo al traffico tutti i giorni, mi sento un po' nervoso, anche la sera quando arrivo a casa mi fanno male le gambe, mi sento nervoso, lo trasmetto anche alla famiglia. Certo. Come, diciamo, hobby, curo un orticello, ho un piccolo appezzamento di terreno e per rilassarmi vado a coltivarmi il pomodoro. Bravo Mario, lei è un saggio. Biologico. Mario, lei è un saggio. Questo è veramente guarda, interessante. In campagna mi trovo nella pace. Lo credo. È bellissimo quello che ha detto. Quelle campagne vicino a Siracusa. Appunto, stiamo magnifico. Parlando in un posto strepitoso. Allora, possiamo sottolineare questo dato, perché lo stato di ansia, lo stato di irritazione, lo stato di deflessione del tono dell'umore si sono associate spesso a attività con particolare stress. L'attività del camionista è tra queste, l'abbiamo detto prima a tutto tondo. È sempre importante segnare e segnalare quelli che sono sintomi di irritabilità in quanto tale. Questi fanno anche parte di quella minor capacità di attenzione che è associata all'attività del camionista e che è stato descritto spesso in associazione con la deprivazione del sonno, il sonno interrotto, il sonno di poca quantità e di scarsa qualità. In tal senso un consiglio che gli esperti, non certo io da urologo, ma gli esperti che ci hanno aiutato, hanno voluto dare è quello di tentare proprio delle attività che siano di riduzione dello stress. L'attività del gardening o quello dell'andare a coltivare le piante o di avere un piccolo orto è tra quelle riconosciute internazionalmente come tra le più riposanti per la mente. C'è un altro aspetto interessante. Durante la guida, quando ci si accorge non già di aver sonno, ma anche solo quando si è meno attenti, non ci si ricordano gli ultimi momenti legati alla guida stessa, come se ci fosse un momento di amnesia, bene, sempre bene fermarsi, 30 minuti di sonno, questi piccoli pisolini sembrano essere estremamente utili. Un altro suggerimento che ci è stato mandato è quello di bere un caffè doppio, che equivale più o meno a 150-200 mg di caffeina, che ha la stessa valenza del nap, cioè del piccolo sonnellino. Facendo però attenzione che quando l'attività, se vogliamo, stimolante della caffeina viene a mancare, il rischio è quello di avere un rebound, cioè quello di ricadere in uno stato di disagio peggiore, per cui non dormire mai meno di 6 ore prima di una lunga tratta, questo è un dato importante, i piccoli sonnellini, l'attività di rilassamento, il gardening è una di queste, l'attività fisica aerobica, l'abbiamo già detto prima, sono tutti elementi, una dieta equilibrata, magari dopo ne parliamo col cuoco randagio, sono tutti elementi estremamente importanti a questo fine. Bravo, l'hai chiamato Andrea, Andrea è uno chef stellato. Non peraltro si chiama Andrea. Ecco, ed è in linea con noi, Andrea Ribaldone, chef stellato dei Due Buoi di Alessandria, e questa settimana si è divertito con noi con le ricette randagie che Andrea hanno veramente divertito, entusiasmato e sono state molto apprezzate dai nostri ascoltatori. Ricette randagie anche per i camionisti? Intanto ciao. Ciao Nico, ciao a tutti intanto e chi più randagio di un camionista. Esatto, è meravigliosa questa cosa. E dicevate bene, diamogli una ricetta anche leggera ma saporita che possano avere sempre in cabina pronta da mangiare. Allora, la bistecchina alla milanese classica, quindi la potete trovare già anche pronta se non avete voglia di farla. Io direi di pollo e poi dopo uovo, una leggera panatura nel pane, ma invece che friggerla la facciamo al forno. Per portarla dietro velocemente e buona, facciamo bollire un litro di vino bianco con 200 ml d'aceto di vino bianco, poi tagliamo anche della cipolla rossa e qualche melanzana, cottiamo in padella anche quella e senza niente, non c'è bisogno di olio, fatte anche alla griglia, e poi copriamo sia le bistecchine con la melanzana, la cipolla, con questo carpione, si chiama proprio, di vino bianco e aceto, così si conservano molto bene. Le possiamo mangiare fredde, sono saporite e non sono troppo pesanti, perché anche l'acidità ci aiuta a digerire meglio. Fantastico. È meravigliosa. Le cotolettine in carpione. Il carpione è proprio una specialità piemontese, vero Andrea? Sì, poi vabbè. Ci sono le zucchine, il carpione. Sor, quindi sai, può cambiare la regione, può cambiare, ma si usa da tutte le parti perché era un modo per conservare. Fredde sono buonissime. Se non le friggiamo, come dicevo prima, rimangono anche molto leggere. Carne bianca, che anche in questo caso è meno pesante e meno difficile da digerire. Allora, i camionisti li abbiamo sistemati. E poi è però... comodo, come direbbe la mia amica Chiara di Como, ma questo è comodo, per cui avere questa possibilità anche in cabina di una piccola cotolettina con carpione mica male. Magari anche, non so se il dottor Melegatti può portarsele anche quando va in bici, dottor Melegatti. Magari, ma sai che lo faccio, perché mia moglie, devo dirti che è fantastica per le cotolettine in carpione. È un piatto incredibile, veramente. Vero? Che viene voglia quasi di andare sul camion per mangiarle. Allora, Andrea, invece per i nostri randaggi, ormai la comunità dei randaggi si sta sempre di più rimpolpando. E dovrei scrivere un libro, sai, sulle ricette randaggi di uno chef stellato. Poi... abbiamo cominciato per gioco, ma è davvero divertente. Allora, oggi io direi per i randagi una frutta, un dessert che non abbiamo ancora fatto, e direi la pesca, proprio frutta di stagione. Semplicemente la tagliate a metà, la incidete, spaccate in due e togliete il nocciolo. Quindi molto semplice, il nocciolo si toglie con un cucchiaio, se è un cucchiaio piccolo, piano piano togliete il nocciolo. Quindi ormai ti dà anche le ricette come aprirle. Ok, la pesca rimane divisa a metà. Perché è comodo. Divisa a metà, la cuociamo 3 minuti, ma proprio 3 minuti, in una padella, con un pochino, appena appena, di zucchero sopra la parte della pelle. Vedrete che, cuocendo leggermente, non deve diventare molle molle, quindi proprio 3 minuti, senza nient'altro, perché la pesca darà un po' i suoi succhi, la pelle si toglie facilmente. A quel punto togliamo la pelle, che magari è più difficile da digerire, la mettiamo in frigo e a parte facciamo, sciogliamo un po' di cioccolato, leggermente un pochino di latte, andiamo a fare proprio una ganache, si chiama, quindi cioccolato sciolto, quello che ci piace di più, ma io direi amaro, leggermente un pochino di latte e un po' di amaretto sbriciolato. Al posto del nocciolo mettiamo questa ganache, anche quella fredda. È un po' una rivisitazione delle pesche ripiene che faccio io, di cui vi darò poi la ricetta, perché fanno attenzione, resuscitare. Qui c'è una competizione. Qua c'è una piccola competizione. 20 secondi per l'altro piattino, l'altra ricettina, ma 20-20 perché Carmelo poi mi taglia. Allora, l'altra ricetta, l'altro giorno abbiamo parlato della pasta messa a bagno. Fatelo anche col riso, però invece che con l'acqua, mettiamo con un goccio di vino bianco. Andate via la mattina, mettete il riso a bagno nel vino bianco, diventerà più morbido, i tempi di cottura si stringono, quindi 3-4 minuti lo cuocete e in più avrete già l'acidità del vino bianco, che va bene con qualsiasi cosa poi vogliate aggiungere al vostro riso. Magnifico, Carmelo è qua già che prende, chissà poi se le farà veramente. Comunque vedo che è molto interessato, forse l'abbiamo convinto a entrare in cucina e mettersi ai fornelli. Allora, grazie ad Andrea Ribaldone, a Gianluca Melegatti, ad Andrea Salogna, a Carmelo Lauricelli, a Marco Lombardo, a Laura Vanossi, grazie a voi che ci avete grazie seguito. Grazie Nico. Buone vacanze, scriveteci, ciao. Non dimenticate a mano, di noi. Scrivete a mano.